La quota rosa di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno e bentornati alla Quota Rosa. Oggi la Quota Rosa fa un viaggio verso una regione italiana, verso la Puglia e in particolare a Molfetta. Ci chiediamo che cosa sta succedendo, perché il TAR ha avvisato la giunta di Molfetta perché non ci sono donne. Insomma, 8 giorni di tempo per reclutare donne nel suo esecutivo. Antonio Azzolini, sindaco di Molfetta e presidente della Commissione Bilancio del Senato, quindi non può più aspettare, deve ottemperare a quanto dichiarato dal TAR. E allora il colpevole, tra virgolette, lo abbiamo con noi, appunto il senatore Antonio Azzolini, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto alla Quota Rosa. Lei è uno dei pochi politici uomini che noi ospitiamo nella nostra trasmissione, generalmente solo politiche donne, però lei ci deve spiegare perché nella sua giunta non c'è nessuna donna. Ma innanzitutto devo correggere le sue imprecisioni, naturalmente. Il TAR non mi ha ordinato di fare tutto ciò che lei dice, ma soltanto di motivare il mio provvedimento, cosa che ho fatto e che naturalmente mi porterà già, non so, domani, dopodomani, a rinominare la giunta. Quindi questa è la situazione effettiva, al di là dei clamori. È cosa che ho fatto perché, insomma, ovviamente ottempero all'ordine del TAR. Naturalmente mi riservo però anche di fare ricorso al Consiglio di Stato, perché è imprecisa, mi erone alla motivazione, a mio modestissimo avviso, e così farò. Ecco, ma ci dice la sua motivazione. Lei ha detto: io ho risposto al TAR e ho spiegato perché non c'è. Io motivo il provvedimento. Il provvedimento è semplice: il rapporto tra il sindaco e una giunta è di fiducia, la fiducia è un atto politico, non è sindacabile, basta, è semplice. E il fatto che in questa fiducia, sindaco, però lei non ci mette nessuna donna. Certo, l'altra volta nella scorsa ne avevo 3 donne. Allora che fine hanno fatto? Questa volta, grazie al sistema che ho usato, ci sono molte donne in consiglio comunale, che, come dovrebbe esserle noto, è il massimo consesso, quello assoggettato alla volontà popolare, e finalmente, grazie al sistema, diciamo, di accoglimento della volontà popolare, siedono in consiglio comunale, mentre non lo sarebbero state secondo il voto, già 3 donne, e una invece ha optato per il consiglio di amministrazione della municipalizzata e quindi fa parte a pieno titolo dell'amministrazione di Molfetta. Questa è la situazione effettiva. Su quanti uomini? 3 donne, 4 donne in consiglio? No, in consiglio al momento sono 4 più la signora che ha deciso di optare, 5. E quanti uomini? 26. Sindaco, io non è che voglio proprio... lei, insomma, è un politico anche a livello nazionale, no? In commissione bilancio che lei presiede del Senato, quante donne ci sono? Ci sono 2 donne. Ed è un... Non la scelgo io quella, naturalmente. Io, sindaco, non vorrei dire meno male, però... No, meno male, lei dice cose, le ripeto, grazie al sistema... Più donne siedono, le ripeto, nel massimo consesso cittadino, che è il Consiglio Comunale, che è quello assoggettato alla democrazia, al volere popolare. Però non decide. Certamente meglio di me, le amministrazioni, le giunte, sono nominate e revocate dal sindaco e ne costituiscono soltanto una espressione amministrativa. Ecco, però la giunta decide, il Consiglio Comunale no, è la giunta che governa. No, il Consiglio Comunale decide le cose importanti della vita cittadina, decide il bilancio, i piani regolatori e tutti gli atti di indirizzo e controllo, ha la funzione fondamentale e sovrana. Ecco, ma non la giunta ne è una espressione, tant'è che non è eletta, solo il sindaco è eletto direttamente, per questo che ha il rapporto fiduciario. Sì, sindaco, io so che lei è molto impegnato in questo momento, ma mi spiega perché a Molfetta non si trovano donne che vogliono fare politica? Le ribadisco, se ne trovano, ne avevo 3 nella scorsa giunta, e il sistema politico di scelta, che è quello di premiare la volontà popolare e quindi i consiglieri che nelle liste hanno ottenuto più voti, purtroppo questa volta non ce n'erano tanti voti per poter essere direttamente inserite nella giunta, ma per fortuna sono entrate nel consiglio comunale e, ribadisco, una signora ha potuto scegliere ed è entrata nella municipalizzata più importante della città, che, come è noto, fa parte dell'amministrazione. Sì, no, questo lei me l'ha detto. Io voglio sapere una cosa, però. Sì. Per esempio, c'è un assessorato alle pari opportunità nel comune di Molfetta? No. c'è una delega. E chi la esegue, una donna? La eseguirò per una signora, naturalmente. Comunque, non c'è un assessorato alle pari opportunità. Quindi lei si sente con la coscienza a posto, non si sente di aver discriminato. Stiamo facendo una grande promozione a favore della dignità delle donne. Lei pensi che la sinistra, invece, non solo non è eletta in consiglio comunale, ma nelle sue file aveva solo donne che hanno preso poche decine di voti, quindi una presenza meno che significativa, direi un pochettino avvilente, mentre nella lista che mi ha sostenuto donne che hanno avuto un consenso popolare ed un suffragio notevole e perciò stesso possono diciamo sedere nel più alto consesso cittadino. Questa è una grande differenza che purtroppo naturalmente non è notata dai giudici che non si occupano di queste cose, ma già che lei è così gentile da occuparsi degli aspetti culturali e politici, mi dà l'occasione finalmente di poterlo esprimere. Allora sentiamo, però lei deve rimanere con noi, Serenella Molendini del PD, consigliera di pari opportunità della regione Puglia e della provincia di Lecce. È vero quello che dice il senatore Antonio Azzolino, sindaco di Molfetta? Allora, guardi, io preferisco essere definita consigliera regionale di parità, indipendentemente appunto dagli aspetti politici, perché la mia funzione è una funzione istituzionale alta, che chiaramente può trovare queste situazioni sia in comuni di centrodestra che in quelli di centrosinistra, e infatti noi stiamo monitorando sull'intero territorio regionale questa situazione, teniamo sott'occhio tra le altre anche alcune realtà che sono proprie del centrosinistra. Quindi al di là di questo, io intanto chiederei al sindaco come primo momento invece proprio di ripensarci rispetto a questo discorso, perché è chiaro che farne a meno di una competenza, di una sensibilità che è squisitamente di genere, priva Molfetta, a mio avviso, di un grande rilievo per ciò che riguarda la politica. Il fatto che ci siano donne sedute in consiglio comunale perché sono state liberamente elette, questo non significa che invece nella gestione poi reale della cosa pubblica sia molto importante invece la giunta. Che ci sia o meno un assessorato alle pari opportunità potrebbe anche non essere necessario, perché il cosiddetto mainstreaming, che è un principio della comunità europea, dice che dovrebbero essere, le politiche di genere dovrebbero esserci in tutti gli atti e in tutte le politiche. Mi meraviglio però che se l'articolo 37 dello Statuto del Comune di Molfetta chiede che ci siano persone non del medesimo sesso, ma che ci sia la rappresentanza di entrambi i sessi all'interno del predetto organo, io penso che il sindaco debba poter eventualmente fare una scelta anche se le consigliere comunali elette non vogliono, di farlo anche all'esterno, come è successo per esempio sia all'interno della regione Puglia sia all'interno della provincia di Lecce, dove per statuto c'è addirittura la quota del 30% e dove il presidente Giovanni Pellegrino per esempio ha cooptato un'assessora esterna proprio perché non c'erano altre consigliere provinciali. Quindi non credo che sia sufficiente la motivazione di dire le consigliere comunali non vogliono, anche perché, ripeto, c'è la possibilità di poter rivolgersi anche all'esterno con competenze esperte particolari. Io voglio ricordare che comunque la situazione di Molfetta non è l'unica che noi abbiamo affrontato. Già quando ero consigliera provinciale è stato affrontato il caso di Veglie. E ne parleremo tra poco, però siccome so che il sindaco è molto impegnato. Perché... Ecco, io gli chiederei al sindaco, perché è chiaro che anche noi non rimarremo ferme davanti a questa sua decisione così categorica, però voglio anche ribadire che l'ordinanza dice sì, devono essere estremamente motivate, poi sulla motivazione che chiaramente ci confronteremo. Allora, mi sembra... sindaco, sentiamo un attimo il sindaco, appunto, Antonio Azzolini. Come... Innanzitutto ringrazio la consigliera Molendini per aver finalmente posto la questione sul piano culturale e politico, che è una delle cose che rivendico, insomma, i ricorsi al TAR, il TAR che si occupa di tutto, io credo che non sia una cosa fisiologica di un sistema e che ordini ad altro potere, ma in ogni caso sono molto contento e la ringrazio per aver posto il problema sul piano culturale. E devo dire che ribadisco ciò che ho detto, le amministrazioni sono una scelta fiduciaria e come tale non soggetta a sindacato. Nella fattispecie ho già detto, la scelta generale fatta è quella di premiare il consenso popolare. Ecco, sindaco, sindaco, sindaco, va bene, va bene. Una sola cosa volevo aggiungere. Non c'è una consigliera mi piace che... un attimo solo, la signora Molendini, giustamente però, nell'ultima parte riproduce il discorso del TAR. Certo, non staranno ferme, naturalmente, nemmeno io. E naturalmente, se ci dovessimo basare sull'aspetto giudiziario, ovviamente la questione sarà chiusa dopo il Consiglio di Stato e dopo. Io mi sono solo sforzato di dare una motivazione, ribadisco, non essendo convinto che questi atti vadano motivati, ma in ogni caso, perché un organo giudiziario lo ha chiesto, lo faccio e spero sia esaustiva. Questo me lo auguro vivamente. Sì. Che la consigliera Molendini dica, deve essere estremamente motivato, l'estremamente non è un giudizio giuridico e quindi sarebbe utile rimanere a quello che dice la legge quando si affronta un giudizio, in questo caso dinanzi al tribunale amministrativo. Però sono molto contento e sono pronto a confrontarmi gentilissimamente con la signora Molendini in un dibattito culturale. Non allora, appena questa vicenda giudiziaria sarà finita, perché sì, non mi è piaciuto il fatto che ci sia dito il giudizio. Sindaco, è più bello sindaco, che la politica sia un confronto come quello che c'è, e ringrazio voi per avermelo consentito. Allora sindaco, stia con noi solo per un'ultima domanda, diamo la linea alla regia, ma ci ritroviamo a tra pochissimo. La quota rosa. E allora parliamo ancora di Molfetta. Il sindaco di Molfetta è con noi, Antonio Azzolini. Il TAR ha chiesto perché non ci sono donne nella giunta di Molfetta. Ricordiamo che il sindaco di Molfetta è anche presidente della commissione bilancio del Senato, è un senatore, quindi è anche seduto al Parlamento nazionale. Lei ha detto non mi è piaciuto il giudizio, per questo lo contesto. Però sindaco, non si potrebbe magari sforzare, come dice lei, per trovare una assessora che possa avere la sua fiducia e che possa entrare nella giunta di Molfetta? Guardi, questo è anche possibile, ma adesso dobbiamo eliminare l'equivoco che ci sia, diciamo, una inadempienza da parte mia nei confronti di una norma. Una volta che questo problema sarà esaurito, non c'è nessuna difficoltà, diciamo, a rivedere sul piano della logica politica la possibilità che ci siano delle donne, una o più donne all'interno dell'amministrazione. Questo non è in discussione, non è in discussione. Ciò che è in discussione adesso però è che è stato adito un giudizio, bisognerà vedere questo giudizio come, diciamo, come finirà. Noi invece sul piano culturale e politico, come lei mi dice, non è assolutamente, diciamo, in discussione la possibilità che si possa rivedere la questione all'interno della logica, diciamo, politica e amministrativa in senso stretto. Non c'è nessuna difficoltà. Anzi, no, ma questo... è sempre auspicabile che ci siano anche delle signore all'interno di qualsiasi consesso. Ecco, ma allora quindi anche prima del Consiglio di Stato, cioè la sua scelta di andare in fondo questa vicenda con il TAR è una scelta, come dice lei, che ha a che fare con l'amministrazione dello Stato, però questa in parallelo potrebbe intanto nominare queste donne nella giunta? No, perché come la signora Molendini sa bene, il caso a cui si riferisce, quello di Veglie, non fu poi assoggettato a giudizio perché è chiaro, se il sindaco nomina una donna non c'è più l'interesse ad agire. Adesso si vedrà come va la questione, dopodiché sarà possibile riprendere in sede politica. Spero di essere stato chiaro. Sì, sì, lei chiede il principio. La signora Molendini proprio non ebbe luogo in secondo grado, cioè dinanzi al Consiglio, perché il sindaco scelse in quella occasione di inserire subito una signora all'interno dell'amministrazione. Io invece voglio definire questo punto, dopodiché se c'è un ordine del giudice, da uomo pubblico devo adeguarmi, anche se non lo condivido naturalmente. Invece, se non ci fosse alla fine dei giudizi, allora riprenderò il dibattito, perché è una questione importante e ribadisco, non solo non c'è preclusione, ma anche c'è tutta la volontà di poter avere un più proficuo rapporto col genere femminile, insomma. Ma se il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi le telefonasse e le dicesse senatore, ma insomma lasciamo stare il TAR, nominiamo una donna, lei che cosa farebbe? No, io direi che è meglio che queste questioni, già che sono sorte, si definiscano, e credo che il Presidente Berlusconi, insomma, comprenderebbe bene. Peraltro, diciamo, non mi ha telefonato in questo momento, diciamo, si sta occupando di altri. Io faccio a lui gli auguri di portare a soluzione i problemi di cui si sta occupando in questo momento, anzi sono certo che lo farà. E questo, diciamo così, per i dipendenti di Alitalia, lo speriamo tutti che la situazione si risolva nel migliore dei modi. Allora, noi salutiamo il sindaco di Molfetta, che vuole andare fino in fondo e poi semmai nominare, dopo che ha chiarito con l'amministrazione dello Stato, dopo che ha chiarito con i giudici amministrativi la sua posizione, poi semmai nominare una donna. Allora, e abbiamo parlato anche di Veglie. Come ci diceva Serenella Molendini, perché Veglie ha avuto lo stesso problema. Allora, al telefono con noi abbiamo Maria Calcagnile, ex assessore, l'unica donna che pochi giorni fa si è dimessa dalla carica, per cui insomma il comune di Veglie è ritornato ad essere tutto quanto maschile in pratica. Sì, è ritornato ad essere tutto al maschile. L'unica donna che era in carica ha deciso di dare dimissioni, perché la voce della donna, essendo sola, fa sempre fatica a farsi sentire, e quindi bisognerebbe che nella giunta ce ne fossero di più, e quindi per lavorare meglio, perché insomma il problema delle donne solo le donne possono capire. Quindi lei ha deciso di dimettersi in pratica? Sì, sì. Ma se la richiamassero magari ci ripenserebbe? Ma per il momento le decisioni sono irrevocabili, quindi preferisco stare al posto in cui sto. Lei era assessore a che cosa? Io ero assessore alla sanità, al personale, e poi mi sono occupata anche delle pari opportunità, dove avevo fatto anche siccome a Veglie non c'era manco il regolamento, quindi avevo fatto anche il regolamento sulle pari opportunità, però è rimasto tale perché non ho potuto svolgere fino in pieno le mie attività, insomma. Quanti uomini ci sono in consiglio a Veglie? E lei era l'unica donna, quanti sì. uomini doveva contrastare? Tanti. Una trentina in consiglio comunale. Sì. Serenella Molendini, consigliere di pari opportunità della regione Puglia, che cosa succede in questa regione? Le pari opportunità sono ben lontane, insomma. Diciamo che sono ben lontane, non solamente in questa regione, ma un po', se vogliamo, in tutta Italia, perché poi non è che se la passino bene o meglio anche gli altri. D'altra parte lo vediamo anche al governo nazionale, se pensiamo che anche a livello di Parlamento europeo l'Italia è quart'ultima rispetto agli altri stati, quindi voglio dire, non è una situazione veramente estremamente gratificante. Capisco anche molto bene l'assessora che si è dimessa, perché spesso le assessore mi confidano questo loro senso di solitudine quando sono sole in una giunta di soli uomini. Io però ritorno a dire, mi auguro che il sindaco sia ancora in ascolto, al sindaco no, Azzurini, purtroppo no, perché doveva andare via, sì, però andar ecco via. Questa intanto c'è il discorso di Veglie, che invece si è pronunciato anche il Consiglio di Stato rispetto a questo discorso. Il TAR ha dato definitivamente ragione anche al ricorso, in cui tra l'altro io non mi ero neanche costituita come consigliera, perché essendo all'epoca consigliera di parità provinciale avevo maggiori difficoltà rispetto a quella regionale, che può invece attivare anche azioni collettive. Però ecco, io ribadisco che l'ordinanza invece secondo me del TAR è abbastanza chiara, parla di una motivazione che non può essere quella fiduciaria, se c'è uno statuto di Molfetta in cui all'articolo 37 c'è scritto invece che bisogna favorire la rappresentanza di entrambi i sessi, se c'è un articolo 51 della Costituzione che dice che bisogna favorire la rappresentanza di entrambi i sessi. Allora, non siamo a un discorso di quote, assolutamente ci sono ancora molte problematiche rispetto a questo, però quando una democrazia non presenta entrambi i sessi nei vari consessi, da quello dei consigli di amministrazione per le imprese a quello politico, io penso che non possiamo parlare di una democrazia compiuta. Allora, parole condivisibili assolutamente per la rappresentanza femminile. Maria Calcagnile, ex assessore pochi giorni fa, lei praticamente era stata messa lì come un po' lo specchietto delle allodole, perché il TAR era intervenuto, poi anche sì, il Consiglio di Stato. Infatti io ero assessore esterna. Mi sono dimessa per delle situazioni che si sono verificate negli ultimi tempi, Visto l'impegno mio che ho, io oltre a fare assessore, ripeto, lavoro, quindi non riesco a seguire in modo abbastanza incisivo tutte le vicende che si susseguono. Siccome sono successe delle cose che io non condividevo, e quindi la mia protesta era quella appunto di dare le dimissioni. Lei si è mai sentita da sola, come dice? Sì, sinceramente sì. Anche perché anche in alcuni linguaggi, anche come linguaggio a volte, si scordano anche della presenza della donna in giunta, quindi assumono anche degli atteggiamenti prettamente maschili, cercando poi di dire oh scusi, mi ero distratto che ci fosse lei, cioè voglio dire anche battute situazioni... un po' misogine oppure un pochino pesanti o di apprezzamento. No, sì, apprezzamenti prettamente maschili, a volte la presenza di una donna, di una sola donna a volte poco visibile, ecco, magari la presenza di più donne magari avrebbero più voce e magari, cioè, invece una sola donna insomma fa fatica a farsi fa fatica anche ad imporsi, no? Perché voglio dire, una donna deve essere innanzitutto, quando è una sola donna deve essere molto grintosa, abbastanza incisiva in alcune decisioni, deve essere una persona molto preparata, perché insomma deve, quando deve farsi valere la sua, bisogna farsi sentire in un contesto prettamente maschile, quindi bisogna essere sicura in tutto quello che si dice, insomma, ecco. Quindi insomma ci sono state anche battute, non so... Ma non personalmente nei miei riguardi, oppure cioè, proprio nel senso, quando si incontrano gli uomini che assumono quegli atteggiamenti loro, quel loro linguaggio così, magari, ma non rivolto nei miei riguardi. Un linguaggio scurrile, ha detto bene, insomma finalmente abbiamo capito che cosa voleva dire, insomma qualche parolaccia in più. Serena Molendini, PD, che cosa farete adesso riguardo a Veglie, visto che si ritrova nello stato di qualche anno fa e nello stesso stato di Molfetta, cioè non ci sono donne in giunta? Guardi, noi ripeto, insieme alla commissione regionale, tra l'altro pari opportunità, stiamo monitorando un po' tutta la situazione, c'è qualcosa anche che non ci convince in altri comuni dove magari in una giunta con la presenza di una sola donna, alla fine il sindaco ha anche detto, le ripeto, è Ostuni, non posso parlare con molta chiarezza, per problemi finanziari diminuiamo gli assessori, ma guarda caso questa scure è andata proprio sull'unica donna presente in giunta. Quindi voglio dire, ci sono delle situazioni molto complesse un po' dappertutto. Chiaramente rispetto a Molfetta mi dispiace che il sindaco Azzolini abbia perseguito questo suo obiettivo di motivare con la fiducia, ma noi continueremo ad esserci, perché la nostra battaglia è una battaglia di rappresentanza di tutti e due i generi in tutti quanti i consessi. Nello stesso tempo, guardi, il problema che ha posto la ex assessora di Veglie è molto serio. Il problema è di una politica che fondamentalmente è maschile nei suoi linguaggi e nei suoi tempi. Allora, noi ringraziamo Serenella Molendini, PD, consigliera alle pari opportunità della Regione Puglia, Maria Calcagnile, ex assessore di Veglie, e poi il senatore Antonio Azzolino, sindaco di Molfetta, e speriamo che in tutta la Puglia e in tutta Italia si provveda a far sì che tutte le giunte abbiano almeno 3 o 4 donne, non una sola. Ci risentiamo per la seconda parte, dove parleremo del nuovo disegno di legge sulla prostituzione. La quota rosa. E prima di passare a parlare di prostituzione, vogliamo parlare di un'iniziativa molto importante, ed è quello degli ospedali vincitori dei bollini rosa. 24 centri al top, nord e sud sono più vicini, questo il risultato della seconda edizione degli ospedali vincitori dei bollini rosa. E per parlare di questo abbiamo con noi la senatrice Dorina Bianchi del Partito Democratico. Lei farà un giro la prossima settimana negli ospedali che sono stati premiati con il bollino rosa, giusto? Sì, noi abbiamo scelto un campione di ospedali tra quelli che sono stati selezionati da Onda, dall'osservatorio Onda e dalla giuria, e inizieremo da Roma. Lunedì saremmo a Roma e partiremo insomma in questa verifica degli ospedali che hanno manifestato una particolare attenzione a quelle che sono le problematiche delle donne e che danno un particolare spazio alle patologie al femminile. Lei, senatrice Dorina Bianchi, lei è del Partito Democratico. E sì. Questa iniziativa è bipartisan o la fate voi come opposizione? No, questa iniziativa parte dalla commissione ministeriale, tra l'altro portata avanti dalla commissione sanità del Senato, quindi è siamo io e la senatrice Laura Bianconi, che è di Forza Italia della PDL, che saremo insieme nell'andare a rilevare quelle che sono le caratteristiche e le eccellenze, per fortuna in questo caso anche al sud, degli ospedali che si occupano di salute femminile. Allora, dopo questo giro ci risentiremo per appunto conoscere quali sono gli ospedali vincitori dei bollini rosa. Buona indagine, senatrice, ce ne abbiamo bisogno. Grazie. Mi farebbe molto piacere, perché io credo che sia anche importante valorizzare questi ospedali e farli conoscere al pubblico femminile. E cambiamo argomento, sì, del Consiglio dei Ministri al disegno di legge sulle misure contro la prostituzione, messo a punto dal Ministro delle Pari Opportunità Mara Carfagna. Quindi l'esecutivo ha dato il via libera, la prostituzione è un fenomeno vergognoso e l'obiettivo delle nuove norme è contrastare il fenomeno e rendere più efficace la lotta allo sfruttamento della prostituzione, in particolare quella minorile. Insomma, dopo 50 anni cambia la legge Merlin, la norma che abolì la regolamentazione della prostituzione in Italia e rese illegali i bordelli. Per parlare di questo argomento abbiamo con noi l'onorevole Barbara Saltamartini della PDL, membro della Commissione Lavoro, Affari Sociali e per l'Infanzia, e la senatrice Donatella Poretti, Radicali PD, membro delle Commissioni Sanità per l'Infanzia. Iniziamo con l'onorevole Saltamartini. Condivide il disegno di legge di Mara Carfagna? Innanzitutto sono contenta che si parli di questo tema e che ci sia comunque una proposta del governo in tal senso molto chiara, che io giudico un primo punto di partenza. Io sostengo l'iniziativa del ministro Carfagna perché comunque è un'iniziativa che mira a far sì che attraverso un contrasto molto duro della prostituzione in luogo pubblico, aperto al pubblico, non è che mira a punire le donne. Mira a contrastare un fenomeno di criminalizzazione e di sfruttamento delle donne finalizzato alla prostituzione, che oggi purtroppo in Italia è il primo vero grande problema relativamente al tema della prostituzione. Allora, intanto sentiamo che cosa dice il nuovo disegno di legge. Ad essere colpiti con identiche sanzioni saranno sia le lucciole che i clienti. Previsto l'arresto da 5 a 15 giorni e l'ammenda da 200 fino a 3.000 euro, e infatti è punibile solo il reato di adescamento, che però risulta ancora di difficile definizione. Comunque il disegno di legge non prevede il ritorno alle case chiuse, che legittimerebbero la prostituzione, invece si tratta di un DDL punitivo, dice il ministro delle pari opportunità Mara Carfagna. Non regolamenta ma contrasta duramente la prostituzione, e quindi niente case chiuse, niente prostituzione per strada. Donatella Poretti, Radicali PD, membro delle commissioni sanità e per l'infanzia, non è un po' utopico pensare che la prostituzione sparisca dalla faccia dell'Italia, diciamo? Beh sì, è decisamente utopico, e secondo me la pecca, diciamo, di positivo questo disegno di legge c'ha, che vuole intervenire sulla materia, però non è neanche il primo governo che ci prova, non è neanche il primo governo di Berlusconi, il problema è che poi si è arenato sempre tutto in Parlamento. Di negativo invece c'è come interviene, perché si interviene in maniera punizionista e proibizionista, senza però, quindi mettendo dei divieti, senza però mettere come contraltare dei regolamenti e dei un modo appunto per disciplinarla e per regolamentarla la prostituzione. Cioè attualmente e come lo sarà anche un domani, venisse approvato questo disegno di legge, resterebbe comunque tutto nell'illegalità e nella clandestinità, e nella clandestinità tutto è possibile, è soltanto invece con delle regole e nella legalità appunto, consentendo a chi si prostituisce volontariamente di farlo rispettando delle regole, dandogli quindi dei diritti e dei doveri, che si potrebbe far emergere un fenomeno che oggi invece è tutto e completamente affidato nelle mani della criminalità organizzata. Onorevole Saltamartini, questo disegno di legge punisce il sesso per strada. Questo è quello che fa in pratica, non è che regolamenta la prostituzione. No. Non vi sembra che ci sia poi un vulnus in questo disegno di legge, proprio quello che diceva la senatrice Poretti, come si farà poi a capire? Innanzitutto io ribadisco una cosa importante, che questo disegno tra l'altro prevede anche un altro punto molto molto importante, che è l'inasprimento relativamente alla prostituzione minorile, per cui questo è un altro punto estremamente importante sul quale mi sento di essere pienamente d'accordo col Ministro. Io non a caso ho parlato... La interrompo perché penso che tutti quanti, incluso l'onorevole la senatrice Poretti, siamo tutti d'accordo sull'inasprimento della prostituzione minorile. Immagino, però ecco, si sta dimenticando di citare questo elemento all'interno del DDL perché magari viene considerato ovvio e scontato, però comunque... c'è ed è importante che venga comunque segnalato e sottolineato nella nostra discussione. Io non a caso dico che questo DDL è un punto di partenza, proprio perché bisogna entrare nel merito di evitare il fatto che vietando, e io sono assolutamente d'accordo, la prostituzione in strada, quindi luogo pubblico aperto al pubblico, bisogna evitare che poi si incrementino fenomeni di illegalità e quindi queste donne, spesso costrette a prostituirsi, per cui io parlo di chi è costretto a prostituirsi innanzitutto, diventino donne invisibili alla società. Allora, rispetto a questo io sono convinta che la discussione in Parlamento invece debba essere una discussione molto approfondita e debba valutare anche la possibilità di emendare il testo. Però, allo stesso tempo, rispetto a quanto diceva la collega senatrice, qui bisogna fare una scelta di fondo, secondo me, e questo attiene innanzitutto alla propria sensibilità, alla propria convinzione e poi anche al dato politico. Noi vogliamo che sia riconosciuto ufficialmente il lavoro della prostituzione, quindi una prostituta, prostituirsi è un lavoro o no? Perché questo fa la differenza ovviamente, cioè se c'è una persona che volontariamente si vuole prostituire e quindi fuori dal fenomeno criminalità, sfruttamento, racket e via dicendo, e che abbia raggiunto la maggiore età, noi vogliamo sancire con una legge che la prostituzione è un lavoro o no? Io sinceramente sono contraria. Donatella Poretti, per lei la prostituzione può essere considerata un lavoro? Metto subito le mani avanti, temo purtroppo di non essere in grande compagnia. Secondo me invece sì, l'attività della prostituzione, laddove è esercitata volontariamente, deve essere riconosciuta come un'attività lavorativa e in quanto tale appunto avere dei riconoscimenti giuridici, un inquadramento giuridico e quindi anche oltre ai doveri di quindi pagare le tasse, anche dei diritti quali quelli previdenziali e tutto quello che comporta appunto essere una persona che effettua e realizza un lavoro. Ma questo secondo me è il passo principale proprio per poter separare quello che è la prostituzione volontaria delle donne, degli uomini, dei transessuali che lo esercitano volontariamente da tutto quell'altro fenomeno che è sicuramente maggioritario, che è quello della prostituzione invece coatta di quelle che sono le persone che costrette in qualche modo a prostituirsi. Su quella fetta lì, su quella che è gestita dalla criminalità, a quel punto lì investire le forze dell'ordine, i servizi sociali, fare interventi pesanti proprio, sì, se vogliamo aggravare le pene, quindi interveniamo sì duramente dove c'è la prostituzione obbligata, ma si può fare solo se si riconosce e si distinguono i due mercati, altrimenti si fa un intervento a metà, quindi io sono d'accordo che se questo è un punto di partenza, cioè presentare un disegno di legge governativo, va benissimo. Allora, noi diamo la linea alla regia per ritrovarci subito dopo a parlare di prostituzione e di quanto sta avvenendo a Roma. La quota rosa. E veniamo a parlare di prostituzione, di quanto è avvenuto a Roma: 22 verbali ad altrettante prostitute, 6 delle quali accompagnate in questura perché senza documenti, 8 automobilisti multati. Sono i primi dati della Polizia Municipale all'indomani dell'ordinanza antiprostituzione firmata dal sindaco Alemanno. E tra le altre cose, il primo multato è un giovane meccanico di Roma di 23 anni che ha detto: non rivoterò per Alemanno, non sapevo niente di questa ordinanza del sindaco, la mia è una trasgressione innocua, non lo rivoterò. Allora, onorevole Salta Martini, ora io la prendo un po' contropiede, visto che lei è PDL però di area N, quindi sì, ricordiamo lo stesso partito del sindaco Alemanno. Sì. Che cosa è successo a un certo punto in Campidoglio? Perché il sindaco ha deciso di anticipare addirittura il disegno di legge del ministro delle pari opportunità Mara Carfagna? Il sindaco ha deciso di mettere in campo quanto lui stesso aveva già anche detto in campagna elettorale, per cui lui ha tenuto fede ad un impegno con tutti gli elettori che lo hanno votato e quindi anche con questo ragazzo di 23 anni che è stato multato l'altro giorno ed è che evidentemente non aveva letto bene il programma elettorale del sindaco. Poi il fatto che questo sia avvenuto subito dopo la presentazione del DDL Carfagna diciamo è semplicemente una causalità, anche perché lo voglio ricordare che Alemanno non è il primo sindaco in Italia ad aver attuato un'ordinanza di questo tipo. Ci sono esempi eccellenti che lo precedono: Verona, dove il sindaco è della Lega, Rimini, dove il sindaco è del PD, Padova PD, Salerno PDL, Firenze, Milano adesso, per cui in realtà è un'ordinanza che segue il filo di altre ordinanze comunali di città più o meno grandi, che ha come interesse quello di colpire la prostituzione in strada, anche perché purtroppo, ricordiamoci, apro piccola parentesi, che le amministrazioni comunali non possono ovviamente legiferare a livello nazionale, possono intervenire solo su alcune materie di loro competenza, una di queste è la viabilità, una di queste è il decoro urbano, una di queste è evitare che in certe zone di Roma esistano dei veri e propri ghetti, anche purtroppo sul vie consolari della nostra città, dove è ormai anche impossibile girare tranquillamente. Lei ha visto in questi ultimi giorni a Roma un miglioramento delle Guardi, strade? Guardi, io è un caso, abito dietro via Cristoforo Colombo. Che è abbastanza famosa come strada per questa attività, diciamo. Allora, le posso dire che da una parte c'è sicuramente una frequentazione migliore da parte di donne piuttosto che di uomini, piuttosto che di transessuali sulla strada, ma la cosa che ho visto è ovviamente una un minor flusso di clienti, e questa per me è la cosa più importante, perché io ci tengo a chiarire la mia posizione. Innanzitutto va punita la richiesta di prostituzione prima ancora che l'offerta, perché ovviamente essendo un mercato economico, ahimè, proprio perché c'è il racket, se non c'è domanda automaticamente può venire calare anche l'offerta, per cui io un miglioramento in tal senso l'ha visto. Allora sentiamo, diamo la parola brevemente a Donatella Poretti. I radicali hanno fatto anche una protesta davanti al Campidoglio su questa ordinanza di Alemanno. Che cosa contestavate? È l'approccio che non va bene secondo me, secondo noi e secondo anche chi, appunto, le associazioni di prostitute che si riuniscono e si raccolgono per chiedere appunto diritti e doveri. Non è soltanto con l'approccio punizionista, proibizionista che si risolve il problema, è un fenomeno sociale, e tutti i fenomeni per cercare di risolverli e di affrontarli lo si fa attraverso regole e modalità di agire nella legalità. 9 milioni di prestazioni, che sono più o meno quelle che vengono stimate in un mercato che appunto attualmente è gestito completamente dalla criminalità organizzata, non è che scompaiono con la bacchetta magica. Inutile farsi la battuta del mestiere più antico del mondo. Io fra l'altro non vedo alcun peccato, eppure ci fosse un peccato, mi auguro che non sia reato il fatto che uno volontariamente acquista del sesso e l'altro volontariamente gli fornisce questa prestazione. Io vedo invece come amministratore, come politico, come cittadino, vorrei semplicemente che tutto questo si svolgesse con delle regole basilari, che non sono quelle di sbattere una donna e una bambina in mezzo a una strada, perché questo sì deve essere un reato, ma se invece una donna volontariamente lo vuole fare, lo deve fare appunto con delle regole. Allora, abbiamo visto che insomma l'ordinanza del sindaco Alemanno fa discutere, però noi adesso andiamo a Milano, dove c'è una mostra sugli arredi delle case chiuse. Per celebrare l'anniversario dell'addio delle case di tolleranza, imposto, lo ricordiamo, dalla legge Merlin il 20 settembre del 1958. Quindi siamo a 50 anni esatti dalla legge Merlin. Allora, Rossella Ramponi, lei ha curato questa mostra. Io vedo anche dei cartelli tipo la tariffa, che era lire 10, mezz'ora, 25, un'ora, 50, insomma. Un po' retro, diciamo, sono tariffe degli anni 30 come periodo. Noi abbiamo fatto questa mostra per il cinquantenario, trattiamo antiquariato, e abbiamo una collezione da 25 anni di marchette dell'epoca, di scritte come quella che ha visto lei, di tariffari come quelli che ha visto lei, ce n'è una più recente che è di dire 500, che è degli anni 50, e ci sono varie cose che arrivano da collezione di un signore bolognese che si chiamava Belletti. Diciamo che il corpo della collezione c'è sempre, poi ci sono alcune cose che magari sono state sostituite, tipo qualche quadro di nudo dell'epoca, ci sono delle lampade d'epoca. Per dare un'idea, c'è come presentazione, c'è questo ingresso popolare dove ci sono alcuni oggetti, c'è il banco della cassa della maîtresse. Noi abbiamo messo anche delle spiegazioni perché non tutti sanno chi è la maîtresse o che cos'è la marchetta, quindi una ricerca un pochino storica anche, diciamo. E poi c'è un ingresso molto più lussuoso con degli arredi dorati, delle cose, dei bronzi molto belli di Liberty. C'era sempre il cartello come difendersi dal pericolo venereo, perché in tutte le case, sia popolari sia lussuose, c'era questo cartello che indicava come bisognava comportarsi. C'erano le tariffe per i militari, c'erano le case lussuose. Una delle cose più particolari è lo specchio del guardone, perché c'era uno stanzino dove a pagamento alcune persone, invece di frequentare le ragazze, guardava da questo specchio, che naturalmente nella camera era uno specchio normale, e in questo stanzino invece poteva vedere attraverso. Io vorrei invece chiudere con uno dei vostri cartelli, molto divertente, o almeno molto divertente, però è importante perché ci fa capire come anche allora ci si poneva il problema dell'ordine pubblico. Si pregano, certo, i signori di voler usufruire dell'orinatoio sito all'interno della casa e non lordare la pubblica via. Esattamente. Allora, io la ringrazio, e ricordiamo che questa mostra è a Milano, al Crazy Art, ai Navigli. L'indirizzo è via Panzeri 10, e questa mostra continua fino alla fine di dicembre. Ringrazio l'onorevole Barbara Saltamartini, PDL, la senatrice Donatella Poretti, Radicali, PD, Valerio Rocchetti in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere alla quotarosa@radio24.it. Un saluto da Elisabetta Fiorito.